Lorenzo, dalla provincia di Prato, come la pensa invece? Buongiorno, io facevo riferimento anche a quel messaggio del soldato fatto a pezzi e devo dire che comprensibilmente capisco la reazione, perché fino a che sentiamo dire che il nostro nemico è terrorista e viene definito solo ed esclusivamente terrorista, a me questa cosa non sta bene, come non sta bene in nessun altro paese, a cominciare dall'Afghanistan. Questi sono combattenti per la loro patria e devono essere rispettati come tali, come abbiamo avuto noi i nostri partigiani, come c'è stato in tutti i popoli del mondo. Qui il problema non è... Lorenzo, lei, per lei Hamas sono i partigiani contro i nazisti. Lorenzo, l'hai detto, io non sono d'accordo e chiudo la trasmissione. Chi dice che Israele è come i nazisti, per me si mette alla stessa stregua dei Rosenberg, capisci? C'è una differenza incontenibile. Quando si dicono queste cose si evoca nel mondo lo spettro della morte. Questa è la mia idea. Io potrò morire da solo minoritario, ma la ripeterò finché ho la possibilità di avere un microfono aperto anche alla radio, perché se la gente pensa di poter dire che Israele è un persecutore, assassino, genocida, vuol dire che cambia le carte in tavola. Se dice che Hamas non usa le armi e non fa stragi, vuol dire che cambia le carte in tavola. È il nostro dovere, comunque la pensiamo politicamente, ma se crediamo nella democrazia e nella libertà, è di opporci con tutti gli strumenti della cultura e della misura contro chi vuole cambiare le carte in tavola, perché non solo terrà Shalit, ma terrà tutti gli altri Shalit da una parte e dall'altra nell'ignoranza, e l'ignoranza è l'anticamera di chi batte i tacchi a chi ha il mitra in mano. Questo mi ha insegnato democrazia e libertà, al di là della politica e al di là di Israele o di chi vuole l'autorappresentanza palestinese e due stati, cosa che è giusta, ma questo non c'entra. Dire che Hamas è come i partigiani italiani contro i nazisti significa fare mercimonio di storia a fini ignobili. Questa è la mia opinione. Fine della trasmissione, appuntamento a domani. Grazie, Rina Giornale Radio.